Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Inizia la settimana, 16:34 minuti e 47:48. Immagini contare 49:50 secondi. No, comunque. Vediamo le pecorelle. Ma... Esatto. Luca Tremolada e Luca Dello Iacovo. Siamo in diretta come tutti i giorni alle 16:30. Non facciamo mai questa cosa che si deve fare in radio, che è anche giusto fare in radio, che siamo una trasmissione radiofonica dedicata alla tecnologia, alla scienza e alla creatività, che andiamo in onda tutti i giorni alle 16:30, che abbiamo Facebook, che abbiamo il Twitter, che abbiamo l'email anche, che abbiamo un sacco di cose, non le facciamo mai, sbagliamo, dovremmo farle, e che abbiamo anche un notiziario tutti i giorni con tre notizie più importanti della scienza e della tecnologia della giornata. Non banali, possibilmente. Non mai banali, sentiamole. L'Australia indaga su Google. L'inchiesta parte dalla raccolta di dati attraverso le reti Wi-Fi. Un'automobile del colosso di Mountain View ha attraversato le strade delle città per scattare fotografie da aggiungere al servizio Street View, una mappa arricchita da immagini. Ma ha conservato i pacchetti di informazioni ottenuti dalla rete Wi-Fi non protette. Sono in corso indagini delle authority anche in Europa e negli Stati Uniti. Facebook si allea con Yahoo. Il social network ha stretto un accordo con il portale online. Gli utenti potranno ricevere aggiornamenti in tempo reale all'interno di una singola piattaforma. Intanto cresce il pubblico di Facebook. Secondo la società di analisi Comscore, ha raggiunto 513 milioni di utenti. Passiamo alle scienze. Aumentano gli incendi nella foresta amazzonica. Secondo gli scienziati, producono una quantità di anidride carbonica paragonabile all'effetto dell'abbattimento di alberi. È una tendenza che mette a rischio l'impegno per ridurre le emissioni di gas serra e preservare il polmone verde del pianeta. I dati sono stati rilevati attraverso satelliti. Rieccoci in trasmissione, 16:36, sono partito troppo presto. Noi oggi raccontiamo un po' di storie di hacker che sono diventati imprenditori, non di imprenditori che sono diventati hacker, la prima delle due, e cercando anche un po' di capire non solo l'hacker cattivo, non solo le bande criminali. Questa trasmissione ha dedicato molto spazio raccontando e spiegando e dividendo, insomma, innanzitutto spiegando che l'hacker non è una brutta parola, anche perché ci sono due partiti, appunto gli hacker white hat, cappello bianco, che sono gli hacker etici, quindi gli hacker che rispettano delle regole, e che quindi provano a misurarsi con i limiti delle tecnologie, che cercano delle brecce, che cercano di capire come funzionano le cose anche attraverso i punti deboli poi dei che sistemi. Smontano e rimontano i sistemi, poi si mettono in è una sfida, insomma, che hanno con le loro capacità, anzi dimostrano, perché poi in tutte le sfide c'è anche una componente di dimostrare il proprio valore, insomma, per cui fanno vedere a tutta la comunità che sono capaci di entrare in quel luogo, di smontare quel software di sicurezza, e questo sicuramente è qualcosa, è un giocare col fuoco da un certo punto di vista. Sì, è un gioco che poi può magari arrivare ai limiti, e quei limiti vengono superati da un altro tipo di hacker, che sono appunto gli hacker black hat, quindi cappello nero, e che sono gli hacker che invece compiono delle imprese e che insomma lo fanno per denaro, cioè rubano dati, rubano carte di credito, per denaro, ma anche altre volte anche sono delle imprese criminali. È l'equivalente del alle volte sono un nano caotico di Dungeons and Dragons, cioè vanno per fare casino, altre volte invece sono più al soldo di organizzazioni criminali vere e proprie. Oggi non abbiamo un nano caotico in collegamento, abbiamo Alessio Pennasilico, Security Evangelist di Alba. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Sentiamo la scheda che ha preparato Luca Dello Iacovo per lei e poi torniamo subito in trasmissione. Alessio Pennasilico ha iniziato come tanti, con giornate di navigazione su internet. La meta preferita erano bacheche elettroniche simili ai forum, le BBS. Negli anni, Pennasilico ha acquisito esperienza sul campo e un soprannome, Mayhem. Come tanti nel suo settore, è stato un hacker etico. Dopo l'università ha aperto un'azienda, Alba, e adesso utilizza le sue conoscenze per contrastare i criminali informatici. esplora i punti deboli delle tecnologie, progetta sistemi di difesa e analizza i rischi. Alcuni anni fa ha salvato un portale di annunci economici da una vasta operazione di attacco, ma la sfida con i pirati di internet è sempre aperta. Vabbè, insomma, lo possiamo dire che il portale in questione si chiamava Bacheca, che era sottoposto a vari attacchi. A che tipo di attacchi era sottoposto Bacheca? Ma erano degli attacchi di tipo distributed denial of service, quindi da tutta Europa e anche in parte da fuori Europa arrivava una quantità di traffico assolutamente non necessaria al loro business, generata esclusivamente per rendere non più disponibile il loro sito e quindi danneggiarli economicamente. Quindi era come se milioni di persone cliccassero continuamente sul refresh della pagina, per far capire. Esattamente così. Questo è stato l'inizio dell'attacco, perché poi è durato settimane ed è evoluto man mano che innalzavamo i diversi strumenti di security. Ecco, in quei casi lì, cioè, proviamo a spiegare che cosa succede, come ci si fa difendere, perché di solito negli articoli, sui giornali, almeno nelle riviste non specializzate, questi tipi di attacchi vengono sempre raccontati come si rubano carte di credito, attacco per bloccare i server, poi succede qualche cosa, non si sa bene che cosa, e tutto viene ripristinato. Esattamente che cos'è che succede? Ma nel caso specifico non si è verificata un'intrusione, quindi nessuno è riuscito a penetrare i loro server e a rubare dei dati, ma banalmente non si sa chi, perché non ci sono state le risorse economiche poi per investigare, ma si è... qualcuno li ha danneggiati dal punto di vista del non rendere disponibile il servizio, quindi i loro clienti che accedevano al servizio non erano più in grado di visualizzare le informazioni sul portale, proprio in virtù di tutto questo traffico che veniva mandato contro di loro. È come se si fosse ingolfata la strada per arrivare al sito internet, è come se l'avessero intasato. Esattamente, hanno intasato il tubo che li collegava ad internet. Ecco, le contromosse quali sono in questo caso? Contromosse ne sono state fatte molte diverse, proprio perché, ripeto, non è stato un singolo attacco ma un'escalation di attacchi di difficoltà via via maggiore, sembrava quasi un videogioco ad un certo punto. Dal primo attacco che si è verificato, che è stato risolto banalmente in un'oretta, perché si trattava di un attacco che tecnicamente si chiama Synflood, una cosa che si conosce dalla fine degli anni Ottanta, individuato l'attacco è stato posto un rimedio conosciuto e assolutamente disponibile sul mercato, veramente nel giro di qualche ora la situazione è stata ripristinata. Ecco, puoi provare a spiegare, cioè anche con una metafora, insomma, una metafora come funziona, cioè cosa fa? Si devia il flusso di questi di questo persone che cliccano, di queste richieste? Ma allora, molto, molto semplicemente la cosa funzionava così, riassumo diverse fasi dell'attacco. Con il fatto che chi cercava di danneggiarli economicamente fondamentalmente aveva a sua disposizione, probabilmente preso in affitto o pagando qualcuno che le gestisce, una grossa rete di computer che si chiama botnet. Mediamente stiamo parlando di computer di utenti casalinghi, quindi non molto protetti, magari senza antivirus o con antivirus particolarmente obsoleti. Quindi infettati questi computer, diciamo che questi criminali li stavano gestendo tutti contemporaneamente, facendo gestire all'insaputa del proprietario di questo computer migliaia, ordini di grandezza erano 10.000 computer che ruotavano, quindi sempre diversi, nell'arco di 3 ore circa. Di ogni 3 ore questi 10.000 computer cambiavano. Ecco, è come avere una specie di catapulta per lanciare sempre più messaggi. Esattamente, si tratta veramente di avere a disposizione una flotta di automobili e poterle mandare tutte contemporaneamente in autostrada a proprio comando. Chiaramente il risultato è che quella strada si ingolfa. Allora, se abbiamo altre metà, basta, adesso fermiamoci, perché tra la catapulta e le flotte, tra l'altro 824-0024 il numero verde, se avete delle domande su, non tanto su come si hackera, ma come, insomma, ci si protegge, chiamate Alessio Pennasilico, vi risponderà con piacere. Gli sms 349-238-6666. Ecco, la cosa che volevamo capire, oltre a... poi come è andata a finire innanzitutto? Ma dopo 3 settimane in cui dormivo col cellulare sotto il cuscino, l'auricolare già addosso e rispondevo da sotto le coperte con buona pace di mia moglie, ma ormai abituata a queste cose, abbiamo messo in piedi così tante misure di sicurezza man mano che in emergenza si inseguivano diversi attacchi, che alla fine la rete è diventata complessa a tal punto che non sono più riusciti ad attaccarla, o comunque avevano finito le risorse economiche o non avevano abbastanza risorse per attaccare la rete così come era stata messa in sicurezza. Quindi per stanchezza, insomma. Esatto, per sfinimento li abbiamo presi. Li prendiamo per sfinimento. Nova Lab 24. Rieccoci in trasmissione, noi abbiamo Raul Chiesa in collegamento. Buongiorno. Buongiorno. Tra l'altro, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, due generazioni di hacker e confronto. Poi abbiamo anche subito una telefonata. No, non ancora. Allora, innanzitutto mandiamo la scheda su Raul Chiesa, poi andiamo con la telefonata. Raul Chiesa è stato tra i primi hacker italiani a diventare famoso sulla scena internazionale. Ha iniziato da ragazzo a utilizzare mouse e tastiera per sfidare i confini delle tecnologie. Era la metà degli anni Ottanta e i pionieri navigavano su Itapac, un antenato di internet. Per anni Raul Chiesa ha messo alla prova i limiti delle difese digitali, poi ha fondato la sua azienda, Media Service, e ha cambiato strada. Adesso dà la caccia agli hacker che infrangono le regole e fa parte delle principali organizzazioni per la sicurezza su internet. Allora, Raul Chiesa è passato dall'altra parte in un certo senso. È una battuta che è standard, amo rispondere, io la vedo più come un'evoluzione personale, una crescita personale. Mi spiego, se oggi alla veneranda età per il mondo hacking di 37 anni, tra un mese a luglio, io passassi ancora fino alle 8 di mattina a cazzeggiare, sì, non sarebbe brillante come idea. In realtà c'è un secondo aspetto più importante che sì, penso abbia accennato anche appena si dico prima. 20 anni fa, una decina d'anni fa, c'era ancora quella sorta di hacking romantico per cui non rubare, danneggiare o altro. Oggi non è più così, c'è cioè il mondo del crimine che sta incontrando il mondo dell'hacking. Questo in parte lo abbiamo anche raccontato, questo, nel senso abbiamo distinto subito le questioni in modo tale da non fare anche facili sovrapposizioni. Proviamo a sentire Marco Colombo che è in collegamento da... Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti, complimenti per la vostra trasmissione. Io volevo fare una domanda al vostro hacker, appena Silico. Sì, ti volevo chiedere... Qualcuno ha creato in Facebook un sito a mio nome, risponde agli amici, fa quello che gli pare. Come si può difendere? Si può interrompere questa cosa? Si può far chiudere? Perché lei, ricordiamo, è quel Marco Colombo. Sono quello, sì. Esatto, è quello famoso, insomma. Alessio Pennasilico, mi raccomando, una risposta... Allora, la risposta politically correct è assolutamente si può interrompere questa cosa, perché creare un profilo a nome di qualcun altro e rispondere a nome suo fingendosi lui in Italia è un reato, e non solo in Italia, è furto d'identità, quindi sicuramente con una denuncia le forze dell'ordine sono in grado non solo di risalire a chi è, ma anche di interrompere questa cosa. E ma come si potrebbe fare per avvisare Facebook? Ci sono delle procedure? Ci sono qualcuno che si può contattare, o qualche associazione o qualche organizzazione magari a cui fare presente quello che è successo? Allora, ci sono sicuramente degli strumenti che prevedono di poter segnalare gli utenti, le pagine, i gruppi che secondo chi li sta segnalando non sono conformi alle politiche del portale o sono comunque inopportuni, evidentemente questa strada molto spesso si rivela molto più lunga e spesso più infruttuosa che non un esposto alla magistratura nel caso di un vero reato, insomma, come in questo caso. Tra l'altro, Colombo, noi, questo è la Verità, insomma, è uno dei temi del Sole 24 Ore, anche cercare un po' di non solo di selezionare la qualità, ma anche di combattere coloro che, insomma, utilizzano internet per le calunnie. Questo è uno delle grandi battaglie della rete. Gli strumenti oggi, a parte la magistratura, sono purtroppo artigianali, non so se è d'accordo. Degli strumenti ci sono. sono, tutto sommato però riterrei estremamente sconveniente mettersi ad indagare in autonomia e rischiare magari di commettere a propria volta un reato per andare a cercare qualcuno che sta creando dei disguidi a noi, insomma. Marco Columbo è soddisfatto? Sì, non so quanto ci si metterà facendo la denuncia. Sarebbe prima Bennasindico andare domani mattina a casa, lo cancella lui direttamente da casa sua, credo che sarebbe la cosa più immediata, perché le forze dell'ordine non so quanto tempo impiegheranno per far chiudere un sito, non ho idea. No, comunque farò denuncia ai carabinieri e poi vedremo cosa succede. No, ma è l'unico, tra l'altro questa è la strada che chiaramente si consiglia in questi casi, perché così vanno per direttissima. Altrimenti contattare Facebook però è complicato, nel senso. E poi anche le risposte arrivano molto raramente, cioè è un problema che è diffuso, quello dell'appropriazione di identità, ma anche i tempi di risposta di Facebook sono per adesso abbastanza lenti. Tra l'altro, Columbo, siccome noi siamo anche molto artigianali, adesso ci mettiamo un po' sotto io e dello Jacopo, se troviamo qualche link interessante o qualcuno da Facebook si mette in contatto con noi, cosa che alle volte accade, pubblicheremo sul nostro Twitter un po' di informazioni, così in modo tale che lei possa attingerne liberamente. Ti ringrazio, ringrazio tutti voi, ringrazio il Bennasindico e vi auguro buon lavoro, grazie tante. Grazie. Bennasindico, tra l'altro non sono molti i fenomeni di questo tipo. Cioè, come stava dicendo il mio collega Chiesa, che è anche un amico, per cui condividiamo spesso molte di queste cose, l'incontro criminali e persone tecnicamente esperte, quindi diciamo hackers, black hats, è sempre più in espansione e quindi genera sempre di più questo tipo di situazioni, che a volte possono comportare un vantaggio economico o comunque di qualche tipo per chi le porta avanti. Quindi sì, è assolutamente in espansione e continuo. Quindi è un business in crescita, ma è anche difficile, anzi, quali strumenti avete oggi per contrastarlo? Abbiamo pochissimi secondi, una risposta lampo da Chiesa. Pronto? No, è andato. Noi ringraziamo comunque Raul Chiesa, in realtà il nostro tempo scadeva adesso, per cui insomma la risposta sugli strumenti la scriverà dello Jacopo, che ha fatto la domanda fuori tempo massimo, sul Twitter di Novalab24 o su Facebook. Sto scherzando naturalmente, io ringrazio gli ospiti che hanno partecipato, ringrazio anche Columbo che ci ha ascoltato, ringrazio Luca dello Jacopo, che domani sarà con noi alle 16.30 con Novalab24. Arrivederci. Nova Lab 24. Nova Lab 24.